stando a guardare le immagini specchiate di fretta. Immagino qualcosa di scritto perché l'appunto ha ripreso a volare. La luna sembra un gioco, le ombre solo posti dove non mi fermerò mai, anche se difetto, per questo tuo difetto. Spostare più in là il pensiero, quando ciò che dicono non è vero. Steso sulla sabbia guardo voi che vedete il mare e lo spazio limpido che mi fa sognare. Non mi fermerò ripetendo la tua espressione, solo ricordando, solo rivivendo la tua emozione. Difetto.